I lavori di domani di Anna Marino. In primo piano tra i lavori di domani ci sono quelli che uniscono business e tecnologie collaborative per l'innovazione, che abilitano e facilitano la trasformazione digitale dell'industria, e sono ruoli che a loro volta trasformano le strategie individuate dal management in progetti effettivi, specifici, concreti di innovazione. Ma per progettare un'architettura che porti a questi risultati ci vuole una figura, il Solution and Innovation Architect, che ha il ruolo di definire l'architettura del sistema informativo che deve essere realizzato nel perimetro di un progetto informatico, appunto, mettendo insieme competenze tecniche di business. E noi raccontiamo come ci si forma per diventare Solution and Innovation Architects, partendo dalle cosiddette discipline STEM, dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics, e spieghiamo in che cosa consistono questi lavori di domani con Guido Porro, mentore di Solution and Innovation Architects. Noi vediamo che nell'ambito tecnologico è richiesta una competenza verticale, ma anche molta flessibilità, agilità, capacità di spaziare, di integrare diverse tecnologie, diverse aree funzionali, e questo naturalmente fa anche il paio con persone che hanno una capacità, una curiosità intellettuale, voglia di rimanere aggiornate, di mettersi in gioco. Uno dei profili che in qualche modo più aderisce a questa descrizione è quello del solution architect, dell'innovation architect, è colui che traduce, direi disegna in una soluzione tecnologica quello che è il management dell'azienda, anche la piccola media azienda che lavora con noi come del suo sistema, ha identificato come iniziative, si dice, di digital transformation, di trasformazione digitale. Ci sono tantissimi esempi che possono andare dal, siamo in periodo di post-Covid, post-Covid-19, tipo soluzioni che consentono il rientro sul lavoro, soluzioni tecnologiche in totale sicurezza per i lavoratori di fabbrica che lavorano sull'impianto, ma nel contempo ottimizzando pur sempre i cicli di produzione. Ecco, non è solo un'applicazione specifica, è una miriade di applicazioni e di ambiti funzionali che devono essere integrati. Ecco, questo è un po' il profilo che vediamo, quello del solution architect, l'integratore di tutte queste aree che viene richiesto moltissimo in azienda in questo momento. È vero che sono le imprese che scelgono, è vero che sono i lavoratori che scelgono di orientarsi, però c'è un gap di informazione molto grande, e soprattutto queste figure nuove hanno bisogno di un percorso e di indicazioni sulla formazione. Ecco, secondo lei dov'è che si possono formare? Quali sono le formazioni base che devono avere queste nuove professionalità? Sì, oltre naturalmente alle competenze di base che arrivano dalla formazione universitaria e superiore tecnica, le cosiddette STEM, quindi di carattere ingegneristico, scientifico, queste persone devono avere la necessità di procedere anche in azienda secondo prospettive di miglioramento continuo. Per esempio, noi dedichiamo più del 20% del tempo alla formazione, quindi i laureati dovrebbero, nel momento in cui scelgono un'azienda, vengono scelti, avere come profilo di interesse anche quello proprio dell'identificazione di quelle aziende che riescono a dedicare tempo alla formazione. Abbiamo per esempio la nostra university che spazia dalle tematiche soft, di gestione del cliente, di team interfunzionali e direi anche internazionali, fino alle competenze tecniche più verticali di tecnologie innovative, dalla intelligenza artificiale ai temi di digital manufacturing e 3D printing. Quindi un po' questa combinazione tra formazione classica universitaria e superiore tecnica, e invece il comprendere come utilizzare queste tecnologie secondo una prospettiva che è molto più pratica in azienda, ecco, questa è un po' la combinazione che vediamo che funziona meglio e in modo più efficiente. Certo, quindi una combinazione tra una formazione di base ma poi una formazione sul campo, scegliendo le aziende dove si fanno le prime esperienze sul campo che incrementano la specializzazione, e poi magari andando a portare la propria expertise in altre dove c'è necessità di queste figure. Infatti c'è una forchetta di guadagno per queste nuove figure anche a seconda della seniority? Cioè guadagnano di più, sono più remunerative se sono specializzate? Sì, la specializzazione sicuramente premia, un punto fondamentale è anche la capacità di estrarre, di avere uno sguardo ampio sui processi e quindi la capacità di vedere le singole applicazioni come parte di una piattaforma più ampia. Quindi più questa capacità che definirei di flessibilità aumenta, più anche la possibilità di proporsi sul mercato con un pacchetto retributivo appetibile aumenta. Quindi questo è un po' il criterio fondamentale, oltre naturalmente alla seniority. Consiglio ai giovani e diciamo a chi vuole reinventarsi come appunto assumere una base rispetto a questo tipo di lavori e su quali figure bisogna indirizzarsi? Il tema fondamentale è sicuramente quello delle competenze verticali, ma nel contempo è ottimo avere anche una buona capacità progettuale, capacità che cioè fanno in modo che le cose succedano veramente, avere una prospettiva pratica, una prospettiva diretta sull'implementazione. Tradurre la soluzione disegnata in chiare specifiche di progetto, poi da condividere con il team di implementazione per ridurre i rischi di progetti quasi a zero e continuare quindi a mantenere la consistenza con quello che effettivamente il management vuole dal punto di vista della digital transformation. Ecco, queste qualità fondamentali, che sono anche tematiche più soft rispetto a quelle tecnologiche verticali, vanno approfondite, devono essere approfondite dai giovani anche dal primissimo periodo di attività lavorativa. Ecco, ci sono anche dei centri dove si possono utilizzare o formarsi questi giovani, diciamo dei centri di eccellenza piuttosto che dei competence center, piuttosto che comunque dei programmi, dei software che aiutano a diventare un po' questi lavori di domani? Tutti gli applicativi che riescono a governare il flusso di informazione all'interno dell'azienda secondo una logica di piattaforma, imparare a utilizzare questi applicativi che oggi lavorano secondo una logica di piattaforma danno la possibilità alle persone che entrano in azienda di nativamente essere portati a guardare i processi secondo una prospettiva molto alta. Per esempio nel nostro caso la logica di piattaforma che è quella che guida tutta l'integrazione dei diversi processi operativi che sviluppiamo con il nostro software. Quindi scegliere aziende che non hanno una prospettiva verticale ultra specializzata, ma riescono ad ampliare lo spettro d'azione del neolaureato, della persona che si vuole formare, questo dà sicuramente un boost dal punto di vista delle capacità che vengono apprese poco per volta dalla persona che vuole imparare, vuole mettersi in gioco. Voi che cosa fate per incentivare, diciamo, questi nuovi lavori, orientamenti, consigli, ma soprattutto qualche esempio di software sul quale ci si esercita, qualche tipo di tool che può veramente essere un apprendimento personale ma un aiuto per l'azienda? Certo, beh, c'è da dire che i nostri stagiari entrano da subito nel vivo del prodotto tecnologico, i laureati che entrano in azienda hanno da subito la possibilità di essere messi in gioco di fronte al cliente con problemi complessi. Esistono tutte le tematiche di simulazione che vanno dalla simulazione della molecola fino invece alla simulazione della grande catena logistica. I famosi digital twin. Corretto, i famosi digital twin. Ecco, questo è un ambito in cui una componente tecnologica significativa dal punto di vista delle capacità dello studente, dell'ex studente, del neolaureato, a fronte di una, come dicevo prima, buona curiosità intellettuale, dà la possibilità a chiunque, anche al neolaureato, di essere messo in prima linea in progetti con difficoltà significativa in termini di implementazione, ma anche di ritorno dell'investimento e di vera trasformazione per il cliente. Quindi il modo migliore è prendere il meglio delle capacità tecnologiche e immediatamente inserirle in una struttura di implementazione che è proprio a livello di piattaforma, quindi molto integrata. Ecco, consoliamo anche tutti quelli che pensano che il digitale si fermi alle tecnologie, alle aziende, eccetera, perché ci sono anche applicazioni nella musica, nel food, in tutti i campi, no? Il gemello digitale, il digital twin, non è solo il modello CAD, quindi 3D. Il modello digitale significa anche come si comporta la molecola che compone una pasta.